perché vogliamo fossilizzarci sul fatto che a fare il tracciamento debbano essere persone titolate, tra virgolette, come studenti di medicina? O io credo che fare il tracciamento serva un po' di acume investigativo e essere un po' svegli. Basterebbe coinvolgere le tante persone disoccupate o che prendono il reddito di cittadinanza, e in questo modo si moltiplicherebbe il numero delle persone che possono fare questa attività. Io potrei accettare tutto, chiusure, non fateci andare a fare shopping, non fateci andare al ristorante, ma io non posso accettare di sentirmi dire non vai a trovare i tuoi genitori. Sarà una decisione mia se ci voglio andare o no, non lo posso accettare. Sempre ci è stato detto che il problema del Covid sono gli asintomatici, perché gli asintomatici si riconoscono subito, quindi forse non è il caso di vaccinare prima i più giovani, che sono quelli che vanno in giro asintomatici a infettare le altre persone. Non so sull'ultimo punto, magari lo chiediamo dopo alle 8.35 al professor Crisanti, che sarà nostro ospite. Al secondo ascoltatore dico, che le posso dire? Io la capisco benissimo, dal punto di vista umano, provo anche empatia per questa posizione, però se la cosa migliore sarebbe evitare i contatti con le persone che hanno qualche anno in più. Va bene, magari non potrà accettarlo, non potrà accettarlo che glielo dicano, questo non lo so, non mi è chiaro, però cioè se stiamo a questo, allora secondo me non abbiamo ancora capito bene esattamente qual è la situazione. Come ho già detto a un ascoltatore che scriveva, mi diceva l'altro giorno, diceva io sono a Milano, ho i miei genitori a Roma, quest'anno non ci potrò andare, mi dispiace, sono nella stessa situazione, anch'io ho i miei genitori a Roma e faremo il primo Natale senza stare insieme, il primo Natale della mia vita senza stare con i miei genitori, esattamente come voi, e però ragazzi quest'anno è così. Lo dico ai tanti anche che poi su questo tema ci scrivono, dicono ah vabbè, ma in fondo sotto la guerra ne abbiamo passate di peggio, riferendosi soprattutto al fatto che presumibilmente che con le scuole, no, che c'è tutto questo lamentarsi per le scuole che sono chiuse, dicono ma sotto la guerra, ragazzi, sotto la guerra ne hanno passate di peggio. Sì, ne abbiamo passate di peggio sotto la guerra, allora prendetevi anche questa e evitiamo di avere contatti con le persone più anziane. È doloroso, per carità, non siamo d'accordo, non è che stiamo dicendo che bello che non vediamo i nostri parenti a Natale, qualcuno lo dice, però è chiaramente un dolore per loro, un dolore per noi, però così è quest'anno, e pazienza, mettiamocela in tasca per una buona volta, almeno la vedo così, poi ovviamente tutte le opinioni su questo fronte sono benvenute. E tutte le modulazioni della cosa, perché è chiaro che alcuni hanno magari la famiglia è tutta in un altro luogo, come me che sono sposato, ho tre figli e quindi siamo comunque una comunità, altri sono singoli in una città diversa da quella dove sono i genitori e quindi soffrono di più la cosa, è un'altra cosa che comprendo perfettamente, però mettiamocela in tasca se possiamo. Il tema dei divieti, non divieti, cosa fare sotto Natale, come muoversi, lo chiama il manifesto, il titolo migliore di oggi, mercatino di Natale, perché in realtà, come sappiamo, non è una questione di epidemiologica, ma di rapporti politici interni. Ed è da questo che iniziamo alle 7:21 minuti e 56 secondi per questa seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, con La Repubblica che titola Italia in rosso, con il Corriere della Sera che titola Italia zona rossa Natale, con La Stampa che parla del compromesso di Natale, zona rossa solo 8 giorni, Il Messaggero che la chiama feste con chiusure a singhiozzo, Il Quotidiano Nazionale col Natale in rosso, ecco il giro di vite. E giornali che fanno altre scelte, come Libero, che titola «Morti 260 medici dimenticati, cifra esorbitante se rapportata alle vittime nel resto d'Europa». In Francia 50, di cui 5 ospedalieri, 22 in Germania, 36 in Inghilterra, 70 in Spagna. Ai nostri dottori scarse protezioni e pochi soldi. Il Fatto Quotidiano apre con la terapia monoclonale, il farmaco anti-Covid bloccato dai burocrati, se la prende con l'agenzia per il farmaco. La Verità se la prende invece con il ministro alla salute Speranza, ufficiale: non c'è più speranza, il politico che deve occuparsi della nostra salute è in fuga, il ministero della salute è squassato dai veleni, sostiene La Verità. Vaccini, c'è il piano, è il titolo di Avvenire. Pronta la distribuzione alle regioni, V-Day europeo entro la fine dell'anno, ma come vedremo dalle pagine interne dei giornali, non è esattamente così, le cose non vanno esattamente in questo modo, qualche problema c'è. Aspettando Renzi è il titolo del giornale, che parla appunto di politica, delle misure, della verifica, eccetera, eccetera. Fatemi iniziare, come sempre, da qualcosa di diverso. In questo caso andiamo sul quotidiano Il Mattino. Siamo a pagina 29 per raccontare un altro caso di giustizia che non è andata come doveva andare. La vicenda riguarda un'altra vicenda che ha conquistato le prime pagine dei giornali e che poi piano piano è sparita ed è stata affogata nelle pagine di cronaca. Si parla di Lorenzo Diana. Chi è? È un ex senatore di centrosinistra, per anni riconosciuto come paladino dell'antimafia, al punto tale da finire nel mirino di progetti di omicidio da parte dei casalesi. È l'unico parlamentare citato, l'unico politico citato nel bestseller Gomorra di Roberto Saviano. Ex presidente nazionale della Rete per la Legalità, insignito del premio Paolo Borsellino nel 2008, Di Pietro ne parlava benissimo. Ebbene, cosa è successo? 5 anni fa è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Cosa è successo 5 anni dopo? Nulla, ne è uscito. Completamente pulito, naturalmente. Diana, la fine di un incubo scagionato da ogni accusa, ci racconta Leandro Del Gaudio, appunto, sul Mattino. Non era un politico al servizio della camorra casalese, non faceva anticamorra di facciata e non c'è alcuna prova che abbia distribuito incarichi in cambio di documenti buoni ad impreziosire la carriera del figlio nella FIGC, perché questo era il sospetto. Cade anche l'ultima accusa a carico di Lorenzo Diana, ex senatore di centrosinistra, per anni riconosciuto come paladino dell'antimafia. Ieri mattina è stato il GIP Marco Giordano a chiudere l'ultimo filone investigativo che lo aveva investito, con un'osservazione che è fin troppo chiara: il procedimento in esame non può che essere archiviato. Cade l'accusa di corruzione, dunque cade per lui e cade anche per l'altro imputato, l'avvocato Manolo Iengo, scrive Leandro Del Gaudio. Ricordate quella vicenda? In sintesi, Diana era accusato di aver preso parte ad un accordo con l'avvocato fondato su una sorta di scambio di favori. Avrebbe ottenuto un certificato di dirigente della Frattese da Manolo Iengo, un attestato utile alla carriera del figlio in cambio della consulenza legale dell'avvocato. Niente di tutto questo, cadute appunto anche l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. 2000 giorni di fango, dice lui, ma ora basta barbarie, e torna a dire: la giustizia va riformata. Restiamo nelle aule di giustizia e però andiamo in un'aula di giustizia britannica e ci andiamo con la pagina 19 della Stampa. Come avete una storia che in parte avete già sentito anche nel GR delle 6. Ed è questa sentenza che sicuramente farà discutere e sicuramente aprirà un mondo dal punto di vista anche legale. La sentenza a Londra, la piccola Ella uccisa dallo smog. Stavolta non sono numeri in bianco e nero, scrive Letizia Tortello sulla Stampa appunto. Stavolta la vittima dell'inquinamento atmosferico ha un nome e un cognome. Si chiama Ella Kissy Debra. Aveva 9 anni quando nel 2013 è stata uccisa da un attacco d'asma, l'ennesimo dopo molti ricoveri per essere stata esposta alla nube tossica dei gas di scarico vicino alla sua abitazione, una delle strade più trafficate di Londra, la South Circular Road a Lewisham. Negli anni aveva avuto numerose crisi epilettiche, ha affrontato 27 visite ospedaliere dal 2010, a riconoscere che la causa della sua prematura scomparsa è stata l'elevatissima concentrazione di diossido di azoto. E particolato è stato in una sentenza storica il coroner della Southwark Coroner's Court della capitale inglese, vale a dire il funzionario governativo che ha il potere di condurre e ordinare un'indagine sulle circostanze e sulle motivazioni di un decesso. Si è preso a cuore il caso della piccola Ella e della sua famiglia. Soprattutto la madre ha creduto nella giustizia e ha fatto di tutto affinché fosse spiegata la ragione di un così grave malessere della bimba. Il pronunciamento del tribunale londinese, come scrive anche Letizia Tortello e come dicevamo, è destinato a fare scuola, visto che è il primo che indica lo smog come responsabile della morte di una persona. L'inchiesta è durata 2 settimane e ha ribaltato l'esito di una precedente indagine. A smuovere le acque è stata dapprima una perizia medica, secondo la quale la vita di Ella rimase per mesi sull'orlo del baratro prima dell'attacco fatale. Nel Regno Unito si calcola che muoiano ogni anno tra le 28 e le 36.000 persone per l'inquinamento atmosferico tossico e l'OMS attribuisce il 24% di tutte le malattie del mondo all'esposizione a fattori ambientali vari, mentre più del 33% per i bambini sotto i 5 anni. Una sentenza destinata sicuramente a fare scuola e a far discutere. Così come sta facendo discutere soprattutto il mondo cattolico, non a caso ne troviamo traccia su Avvenire a pagina 17, la decisione in arrivo da parte della Spagna, la quale si appresta a dare il via libera al diritto di morire, all'eutanasia. Oggi arriverà il primo via libera dal Parlamento di Madrid, scrive Paola Del Vecchio a pagina appunto 17 di Avvenire. Se non ci saranno sorprese dell'ultima ora, la Spagna avrà una legge di eutanasia entro fine anno. Con un'accelerazione impressa dai promotori della coalizione progressista di socialisti e Podemos, il Congresso dei Deputati in seduta plenaria, convocata ad hoc, darà oggi il via libera al testo definitivo. Licenziato in Commissione Giustizia meno di una settimana fa, con il voto in blocco dei partiti nazionalisti baschi, dei catalani, dei piccoli regionalisti, più il liberale Ciudadanos e il no del Partito Popolare dell'estrema destra Vox, il passaggio al Senato sarà in sostanza una pura formalità, perché la Camera Alta può modificare ma non bocciare una legge approvata dai deputati. Come funzionerà in sostanza? La legge regola eutanasia e suicidio assistito, suicidio medicalmente assistito, come diritti della persona, cui corrisponde per il servizio sanitario il dovere di erogarla come prestazione. Il richiedente deve avere nazionalità spagnola o residenza in Spagna, maggiore di età, essere capace e cosciente al momento della richiesta. Richiesta che deve essere, la persona deve essere affetta da una malattia grave o incurabile o da una malattia grave, cronica e invalidante. Quindi sarà messa in una condizione di sofferenza dovuta a una malattia o sofferenza incurabile che la persona sperimenta come inaccettabile e non ha potuto essere mitigata con altri mezzi. È una procedura che prevede una serie di passaggi, complessivamente non più di 32 giorni. È prevista l'obiezione di coscienza, ma è previsto anche che lo Stato debba assicurare che le persone trovino la possibilità di esercitare questo diritto. Un'altra questione, appunto, che fa discutere il mondo cattolico. Ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo subito dopo e poi parliamo un po', ovviamente, di pandemia, dei piani sui vaccini e non solo di quelli. A tra poco. Mattino. Ma lo Stato italiano non farà mai nulla per Regeni. L'Egitto è il nostro primo cliente di forniture militari. Lo vogliamo capire o no che è un vicolo cieco? Nei mesi passati abbiamo speso chissà quanti soldi, chissà quanto tempo per elaborare un progetto di Italia basato su zone a colori, con la possibilità di cambiare colore in funzione di 25 parametri individuati da questi esperti. E oggi tutto questo non si utilizza più, dopo nemmeno 3 settimane dalla sua applicazione. Cosa ne pensi se Mattarella facesse una bella mossa di mettere Draghi senatore a vita? È un passaggio che mi ricorda un po' quello di Monti, però forse sarebbe l'unica maniera per far capire chi è forse l'unica persona oggi in Italia in grado di gestire i fondi europei. L'idea della mossa replica, la mossa replica, Mattarella come Napolitano prende Draghi, lo mette senatore a vita per dare, dice, oh, così, oh, ma Alessandro Marco Turi dall'altra parte del vetro mi fa il cenno, oh, ci sentite? È un po' questa, va bene, non è male. Ah, sulla questione Regeni, caro ascoltatore, ne abbiamo parlato lungamente, se volete andarvi a riascoltare il podcast, non mi ricordo esattamente la data e la puntata, però ne abbiamo parlato con Ugo Tramballi e Luigi Manconi alle 8.35, diceva giustamente Ugo Tramballi, mi sembra una valutazione assolutamente sensata, dice questo: guardate che non è che il fare affari e l'intraprendere mosse diplomatiche per dimostrare la propria insoddisfazione di fronte ad un dossier sono due cose in contrasto. Uno può, per esempio, ritirare l'ambasciatore, dare segnali che c'è una crisi diplomatica in corso senza per questo interrompere gli affari. Qualcuno lo giudicherebbe furbesco, però è così che succede a livello internazionale, a livello diplomatico, molto semplicemente. E fatico a non concordare invece con l'ascoltatore che ci parla della questione del progetto delle zone a colori. Ma come? L'abbiamo elaborato, abbiamo fatto tutta questa fatica, l'abbiamo fatto passare e poi improvvisamente non vale più sotto Natale. Però sai, c'è anche la preoccupazione che la gente si sposti un po' troppo. Oh, ma dove vogliamo andare, ragazzi? Dove vogliamo andare? Se, come ci racconta il Corriere della Sera, pagina 39, Esselunga ci ha messo 36 anni ad aprire, 36 anni ad inaugurare il suo primo store a Genova. 36 anni, eh? 36. Chi si parla sempre di, no, di investitori pazienti, di capitalismo paziente. Che pazienza ci vuole per aspettare 36 anni e vedere i frutti di un investimento? Esselunga accelera, ci racconta Daniela Polizzi, e apre un nuovo store. Lo fa a Genova con un debutto che ha anche un valore simbolico. Ci sono voluti 36 anni tra l'acquisto del primo immobile e il taglio del nastro. Era il 1984. Ragazzi, un'epoca fa, quando il fondatore del gruppo, Bernardo Caprotti, decise di fare rotta sul capoluogo, ligure. Ora, dopo un'attesa da record, il gruppo leader della grande distribuzione darà lavoro a 134 persone, delle quali 112 del territorio ligure, in uno spazio recuperato architettonicamente. Era un'ex officina Fiat nel cuore di Albaro, a pochi passi dal mare. È un'inaugurazione che porta con sé un doppio risultato: lo sbarco in una provincia nuova, Esselunga è già alla Spezia, una sfida vinta. Burocrazia e presidio territoriale di altre insegne hanno allungato i tempi, ma la logica conservativa si è sbloccata grazie all'impegno del gruppo guidato dall'amministrazione Sami Kaale, del comune e della regione. Dice il presidente Toti: il regalo lo facciamo al libero mercato e al carrello della spesa dei genovesi, perché è giusto che vi sia la concorrenza che consente a tanti cittadini di scegliere i prodotti più convenienti sul mercato. Se siete stupiti da questi 36 anni, tenete presente questo. Dice l'amministratore delegato Sami Kaale: ogni negozio che inauguriamo crea in media 100 posti di lavoro, ma per completare l'iter ci vogliono comunque in media 11 anni per aprire un nuovo store. E questa è la media. Quale persona sana di mente verrebbe a investire in un paese così? Le nostre città e i monopattini, così andiamo anche su altri argomenti. Siamo sulla cronaca di Repubblica, pagina 25. La rivolta contro i monopattini sta prendendo progressivamente corpo anche all'interno delle nostre città, lo racconta Cristina Nadotti, raccontando di una luna di miele che è finita. Dopo una prima infatuazione, il mezzo ideale per coprire l'ultimo miglio e rivoluzionare la mobilità ha mostrato i suoi difetti. Così le città, grandi e piccole, dopo essersi affrettate a fare contratti con le società per il noleggio, ora chiedono una stretta sulle regole. Con un numero sempre maggiore di monopattini in circolazione, solo nei primi 7 mesi del 2020 se ne sono venduti il 36% in più, gli amministratori locali si sono resi conto dei problemi. Quelli noleggiati spesso sono abbandonati a caso e chi li usa non rispetta il codice della strada. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lavora per rendere obbligatorio il casco sul monopattino a tutti, come lo è già tra i 14 e i 18 anni. Ferrara ha stabilito il limite massimo di 6 km orari nelle aree pedonali e 25 sulla carreggiata stradale. L'obbligo di luci e giubbotti retroriflettenti e il divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali. Torino ha messo una targhetta identificativa, Milano rimuove quelli che sono parcheggiati male. Dunque è iniziata, dopo la grande infatuazione, a quanto pare, la guerra ai monopattini. Le questioni pandemiche, molto rapidamente, trovate molti pezzi sui quotidiani. Di vaccini abbiamo parlato poco fa, anche alle 6.45 con l'assessore regionale toscano. Qua abbiamo da Libero alla Stampa, al Quotidiano Nazionale, che ci raccontano che sul piano vaccini siamo tutt'altro che pronti, nonostante avvenire titoli vaccini c'è il piano. Perché? Perché per esempio manca il personale. Ci dice Libero, se vi ricordate di questo tema l'avevamo già affrontato, Solo ora Arcuri va alla ricerca di 3.000 dottori per vaccinare. Germania, Francia, Spagna e Austria sono pronte da tempo per la somministrazione del vaccino anti-Covid, scrive Alessandro Gonzato a pagina 4 di Libero. E attendono solo che l'Agenzia Europea per i Medicinali dia l'ok al siero prodotto da Pfizer-BioNTech. Il nostro ineffabile commissario all'emergenza Domenico Arcuri invece si è ricordato solo ieri di avviare il reclutamento di medici, infermieri e assistenti sanitari che dovranno somministrarcelo. La chiamata alle armi, così l'ha definita, così lo chiama Libero sarcasticamente, il badoglio del Covid, mira a 15.000 professionisti. Potranno rispondere alla chiamata anche medici, pensionati e laureati. I contratti dureranno 9 mesi, ma potranno essere rinnovati. La scadenza è fissata per le 18 del 28 dicembre. Nel frattempo è stato deciso che il V-Day, inteso come il giorno dell'avvio della vaccinazione su scala europea, sarà il 26, il 27 o il 28 dicembre, quindi il giorno della scadenza del bando per assumere medici e infermieri che dovranno inoculare il vaccino. Come capite, un problemino c'è. Sono in alto mare anche i piani regionali, ci racconta la Stampa a pagina 6, perché non è che è tutta colpa dello Stato centrale. Da un lato c'è il Lazio che dichiara di mettere in campo 487 medici, infermieri e 199 tra operatori sociosanitari e amministrativi. Dall'altro le Marche schierano solo 5 uomini in campo per 38.000 dosi e conta di impiegare 301 giorni per chiudere la prima pratica. La Lombardia punta a effettuare 306.000 vaccinazioni in 36 giorni, quindi in un mese, con poco più di 300 vaccinatori. E la Puglia ne impiega 84 per somministrarne meno di 95.000, con soli appunto 56 uomini. Questo è il punto dei piani vaccinali, che sono appunto un altro fronte di preoccupazione. Cosa ancora da vedere? Questo ve l'ho già citata prima, la pagina di Repubblica che parla di queste feste in rosso, ma non la Befana, mettendo un calendario dei divieti, se sarà veramente così, bisogna stamparsi queste cose, tenersele da parte, così sei tranquillo su quando puoi muoverti e quando non puoi muoverti. Ci segnala sul fronte della Germania Avvenire con Vincenzo Savignano a pagina 9 che nel primo giorno di lockdown duro la Germania conta quasi 1.000 morti, un numero elevatissimo, ma nel frattempo apprendiamo che la Gran Bretagna, e forse sarebbe il caso di sbrigarsi, di vaccini ne ha già inoculati 140.000. Traffico. Agli ascoltatori che ci chiedono parlate del Veneto, ci arriveremo alle 8.35, come vi dicevo avremo il professor Crisanti per approfondire proprio la situazione, una delle situazioni che ci pare più preoccupanti, o meglio non ci pare, lo dice lo stesso presidente della regione Zaia, che è una delle situazioni più preoccupanti. Buongiorno al nostro direttore anche dell'agenzia di stampa Radio Core e del Sole 24 Ore, naturalmente, Fabio Tamburini. Fabio, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti, compatibilmente sempre Il Sole 24 Ore oggi parla di caos totale sulla riapertura della scuola, in apertura del quotidiano, perché anche da questi microfoni ne abbiamo parlato, pare che le cose non siano esattamente pronte per il rientro degli studenti delle superiori in classe, Fabio. Quello che sta accadendo fa venire insieme rabbia e latte alle ginocchia, come si suol dire. Insomma, dopo la fine della prima ondata abbiamo passato l'intera estate a baloccarci col tema delle rotelle ai banchi. Il risultato, arrivati del tutto impreparati alla riapertura delle scuole. Conseguenza, scuole aperte per qualche settimana e poi subito chiuse. Uno, persona normale, si aspetta che un minuto dopo la chiusura tutti al lavoro per preparare la riapertura del 7 gennaio. Peccato che sia accaduto esattamente il contrario. In proposito, caro Simone, una medaglia d'oro, perché tu sei stato il primo a sollevare durante la tua trasmissione del mattino questo tema. È incredibile quello che sta accadendo. Il risultato è che il paese arriva del tutto impreparato in un caos totale alla riapertura del 7 gennaio. Di conseguenza, o la riapertura slitterà, oppure, se ci sarà, è destinata a durare qualche settimana per poi porre i presupposti per una rapidissima nuova chiusura. Sì. Così non si fa. Questo è il manuale di come non si governa un paese. Sì, si parla di, appunto, come si dice, di riapertura delle scuole in bilico, del rischio dei trasporti. Naturalmente ce ne siamo occupati lunedì, i tavoli stanno iniziando. Proprio in queste ore stanno iniziando i tavoli, o meglio, in parte sono già iniziati, però siamo ancora a nessuna decisione sostanziale. La CISL dice che è poco realistico l'obiettivo del 75% di studenti da riportare in classe. I pezzi li trovate, sono su pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, con Claudio Tucci che ci parla degli ingressi scaglionati, del digitale e delle cattedre vuote. Insomma, fa il punto un po' di tutti i ritardi, e poi Eugenio Bruno con qualche dettaglio in più. Ci sono anche commenti, trovate tutti gli spunti. Aggiungo al racconto che facevi, Fabio, di quello che è successo alla ripresa di settembre, che ci sono addirittura dei luoghi, dei comuni di questo paese nei quali i ragazzi sono andati a scuola 4 giorni, e mi riferisco a un paio di comuni della Campania che ha deciso di riaprire le scuole dopo le elezioni regionali. C'è un altro fronte molto interessante, Fabio, oggi sul quotidiano, che è la Cina, Cina che esce dalla crisi da Covid alla grande, con un'economia che torna a correre, ci racconta Rita Fatiguso a pagina 31. Alla francese direi chapeau, tradotto in italiano complimenti. Quello che sta accadendo in Cina dimostra che davvero si può fare. La Cina è ripartita con maggiore velocità di prima. L'economia sta macinando risultati positivi uno dietro l'altro, il sistema delle imprese è tornato a produrre. Certo, la Cina ha tanti difetti, non possiamo dimenticarcelo, però ha ripreso la strada dello sviluppo, e guardate che questo significa una conseguenza, questo ha una conseguenza molto che peserà negli equilibri internazionali, perché questa ripresa formidabile della Cina pone le premesse per un aumento sempre di più della forbice tra la Cina e l'Occidente. Un Occidente che purtroppo arranca, sembra un po' sulla via della decadenza, e un Estremo Oriente guidato dalla Cina che guadagna posizioni. Questo avrà delle conseguenze sulla geopolitica non banali. Fabio, ti porterei anche un po' sulle questioni che abbiamo parlato di riapertura della scuola, però c'è anche quello che succederà sotto Natale. Situazione discretamente caotica anche da quelle parti, mi pare, con queste ipotesi di aperture a scatti: 3 giorni zona rossa, 3 giorni si torna come prima, 3 giorni si ritorna a zona rossa. Una scelta un po' strana, forse dettata da questioni politiche naturalmente interne. Non vorrei essere offensivo, e lo dico senza acrimonia. Scuola e Natale dimostrano che spesso si sono scelte fatte da degli scappati di casa. Ma come è possibile essere qui a baloccarci, a perdere tempo, sprecare energie, chiusi, non chiusi, aperti, semiaperti, questo si può fare, questo che no? mancano pochi giorni, e ancora le famiglie sono in assoluta incertezza, ma per favore, un mio consiglio a chi ci governa, dormire di più di notte e anche riposare il giorno della domenica. Forse si potrebbe così porre le premesse per scelte più lucide. Ascolta Fabio, infine c'è un altro capitolo che sta creando qualche problema, un pezzo delle questioni che stanno creando problemi all'interno della maggioranza, ed è la manovra. Se da una parte ieri, la giornata di ieri ha fatto segnare l'arrivo degli incentivi auto per 420 milioni, la giornata di ieri ha messo in evidenza ancora una volta lo scontro tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per il cosiddetto super bonus. Sì, lo scontro c'è, nessuno mette in discussione la validità del super bonus, bisogna dircelo con chiarezza, questo governo ha fatto alcune cose positive, perché negarlo? Una di queste è certamente il super bonus, che ha tutte le premesse per rappresentare un contributo importante per la ripresa dell'edilizia, del mercato dell'edilizia, del mercato delle costruzioni, che è importante in uno scenario di speranza per la ripresa dell'economia italiana. C'è però un problema, che per il super bonus servono soldi, e questa è l'unica ragione per cui il Ministero dell'Economia, che giustamente deve tenere un occhio sulle compatibilità economiche, dice non ci sono i soldi, quindi tutti d'accordo nella proroga, il problema è che mancano i soldi, e non è un'invenzione del Ministero dell'Economia, ma è una realtà. Sì, una questione di sostanza. Conseguenza vedremo come andrà a finire. D'altra parte, se non si danno certezza, se non si dà certezza ai privati e alle imprese che devono puntare sul super bonus, si rischia di complicare la vita a questo strumento che, ripeto, è una scelta felice di questo governo. Grazie al nostro direttore dell'agenzia di stampa Radio Core del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci risentiamo giovedì prossimo. Buona giornata, ciao. Compatibilmente sempre. CR24, noi ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli, come sempre, poi parleremo col professor Crisanti della situazione soprattutto in Veneto, ma non solamente di quella, anche un po' di scuola, vedere come la vede lui, e poi avremo ospite un vicepresidente di Confindustria, Di Stefano, per capire un po' come la vede l'associazione industriali questa situazione. A tra poco.